E invece di lasciarmi andare, provo almeno ad inventare nuove fantasie. E invece di lasciarmi andare, provo almeno ad inventare nuove strategie. Non lasciarmi adesso, no, non puoi pretenderlo. Non posso più perderti, non è giusto, no. E invece di lasciarmi andare, provo almeno ad inventare nuove fantasie. E invece di lasciarmi andare, provo almeno ad inventare nuove strategie. Ti prego, su, abbracciami, siamo incolpevoli. Ti prego, dai, scusami. Invece di lasciarmi andare, provo almeno ad inventare nuove fantasie. E invece di lasciarmi andare, provo almeno ad inventare nuove strategie. E invece di lasciarmi andare, provo almeno ad inventare nuove strategie. E invece di mandarmi via, cerca almeno di trovare la mia fantasia. E invece di lasciarmi andare, e invece di lasciarmi andare via, e invece di lasciarmi andare, e invece di lasciarmi andare.